Tempo di sport con Carlo Genta. Il cross di Emanuelson, Vidal lo mette fuori, Maxence Buffon e poi Sule. Montari, Manuele gol, è annullato il gol, fuori gioco di Montari dopo la straordinaria parata di Buffon, forse poi rivedremo. Allora, colpo di testa di Maxence, Buffon fa un miracolo. Poi nettamente non può essere in fuorigioco perché c'è un uomo dietro la linea. No, assolutamente. Non si può più evitare che almeno su un gol non ci sia una fotocellula, qualcosa. No, non ho condizionato niente, anche perché io non parlo più, perché credo che da ora in avanti per parlare di che avrei messo a Marotto. Non mi era venuto un dubbio, credo che la linea della porta fosse stata disegnata un pochino più grossa rispetto alle altre linee. Trovo inaccettabile il fatto che tu dica che un gol si doveva e non hai ragione. L'altro no. E no, e non no, hai ragione. Perché sono tutti e due errori tecnici. Guarda, non me ma ne frega sono tutti nulla due errori sia... tecnici. Non ho capito. Un ascoltami, gol era, però era... molto più non puoi paragonare. Io non mi sono accorto chiaramente di nulla, perché io sto guardando Montari e la palla, non è che sto guardando linea, palo e cose varie. E come ho detto anche in maniera onesta, se me ne fossi accorto non è che avrei aiutato l'arbitro. Faccio lo stesso, perché calcio è la mia vita, è quello che lavoro per mettere da mangiare a casa, quindi io non, facevo anche lui, come lui, non parlavo. Direi le stesse cose, identiche, perché se dicessi una cosa diversa mi prenderei la responsabilità, magari in una finale mondiale, di dover comportarmi di conseguenza a quello che dico. E siccome non ho, penso di non avere questa forza, lo ripeto e lo ribadisco. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, Franco Piantanida in redazione, che ringrazio per questo montaggio, Pietro Lacorte in regia. È storia ma è anche cronaca, perché le ultime due affermazioni che avete sentito sono storia di questa mattina con Thiago Silva, che dice: secondo me anch'io avrei fatto come Buffon, il calcio è la mia vita, l'avete sentito, il mio lavoro, avrei fatto come lui, non avrei parlato. Però in una partita così importante l'arbitro non può sbagliare. Le altre parole sono quelle di Buffon di stamattina all'arrivo a Genova, al raduno della nazionale, e se poi lo faccio in una finale mondiale, 800240024 è il numero verde. La mia prima idea è che i massimi dirigenti di Milan e Juventus, Agnelli e Berlusconi o Galliani e Marotta, dovrebbero presentarsi a chiedere scusa al mondo dello sport per come si sono comportati prima di questa partita e dopo questa partita, perché credo che il prima e dopo siano state le cose più insopportabili di una notte sbagliata, più degli stessi errori di Tagliavento e di Romagnoli. Credo che Buffon abbia detto una frase non richiesta, non necessaria, irresponsabile certamente, visto il momento e visto appunto il contesto. Ha detto una frase estremamente franca, estremamente vera: lui non l'avrebbe fatto e non l'avremmo fatto nemmeno noi, almeno io non l'avrei mai fatto. Andrea Zorzi, buongiorno. Hai chiesto rinforzi oggi allora, giusto? Oggi ho chiesto rinforzi. e mi hai chiamato. E ti ho chiamato. Finale mondiale tie break. La palla è dentro, l'arbitro la valuta fuori oppure il contrario? La domanda vinci. È... vinci se o perdi, lo fai, l'hai fatto, lo faresti? No, non l'ho fatto. Non mi ricordo neanche un esempio in cui ci fosse la possibilità di alzare la mano e dire no, io l'ho toccata o la palla era fuori. Forse, viste le grandi polemiche che la frase di Buffon, che da sportivo in qualche modo non mi sorprende più di tanto, però ne capisco poi le implicazioni, quindi capisco un pochettino anche la bufera che ne è nata da quelle dichiarazioni, se forse alla fine avesse magari oggi detto: guardate, avrei tanto voluto avere il coraggio di farlo, ma non ci sono riuscito. Ma in fondo l'ha detto. Anche l'altra sera ha detto: non sono un santo. Ha detto: in una finale mondiale mi piacerebbe, cioè poi dovrei fare una finale. In una finale mondiale non ne ho il coraggio. Hai ragione. In modo tipicamente italiano, stiamo, come dire, dividendoci in guelfi e ghibellini per dar ragione o torto a Buffoni. Credo sia l'esempio tipico di una situazione in cui Buffon ha ragione e torto insieme. È stato sincero e un po' ipocrita, e sicuramente ha fatto diversamente rispetto a molti altri che avevano scelto la via, quella sotterranea. Non diciamo nulla, stiamo perché buoni. Ipocrita? Ma perché, non è ipocrita, ha detto qualcosa qualcosa che può essere legittimamente considerato un invito a non comportarsi in modo etico, in modo morale. Ripeto, da ex sportivo che dentro in campo, che molte volte nei momenti di tensione non ha reagito come avrei voluto né come è giusto fare, mi sento molto vicino a Buffon e mi sa che mi sarei comportato come lui. Allo stesso modo non possiamo pensare che questa esplicitazione sia... Sai cosa io trovo insopportabile? Ma le dichiarazioni degli altri. Sì. Io trovo insopportabili le dichiarazioni di Nicchi, ad esempio, che ha detto, le abbiamo, credo, abbiamo le dichiarazioni, allora invece di leggervele ve le faccio sentire. Marcello Nicchi, presidente dell'Associazione Arbitrale Italiana. Tagliavento probabilmente ha sbagliato l'approccio, perché io che guardo le cose più a tutto tondo non mi limito solo al fatto che sia stato travisato e non visto un gol che era entrato, ma è l'atteggiamento di Tagliavento che è arrivato a questa partita in modo sbagliato, probabilmente dovuto anche alle grandi tensioni che si erano accumulati durante la settimana, perché ovviamente gli arbitri non sono persone che vengono da Marte, sono persone che vivono la quotidianità, e probabilmente questo accumulo di tensione ha fatto sì che sono arrivati lì invece che carichi, già scarichi. Mi addolora anche il fatto che il mio portiere, il capitano della mia nazionale, non sto parlando del portiere di una squadra qualunque essa sia, abbia detto cose che si poteva risparmiare, perché sicuramente quello non è un esempio per i giovani che ascoltano. Ecco, questa storia dell'esempio per i giovani che ascoltano, e con questa colata di demagogia, questa mi dà, almeno personalmente, so di dire una cosa impopolare, mi dà molto più fastidio le parole di Buffon. A me queste parole di Nicchi danno più fastidio le parole di Buffon. Non so a voi, non so se siete anche neanche sinceri, ad esempio non lo è chi scrive: ma vergognatevi, spero non abbiate figli, si chiama Corrado, io di figli ne ho, Andrea Zorzi pure, non mi vergogno neanche un po', perché è ora di smetterla, secondo me, anche con questa storia dello sportivo cui si deve chiedere di essere santo ed eroe, perché non è così. A educare i vostri figli dovete pensarci voi, non deve pensarci Gigi Buffon. Quindi, secondo Corrado, la nostra è un'istigazione ad essere ipocriti. Contento. 800 24 00 24 è il numero verde. Tu sapevi già da qualche giorno, ci eravamo messi d'accordo, comunque oggi saresti stato qui con me, perché quando sabato me l'hai detto, allora domani e dopodomani devo guardare un po' le partite seriamente, e mi sono guardato seriamente, in modo molto attento, la partita Milan contro Juve dall'inizio fino alla fine. Ti è piaciuta? Sì. Mi è piaciuta molto, mi è piaciuta, una bella partita. Naturalmente anch'io ho visto che c'erano un paio di situazioni che avrebbero scaldato gli animi, però ho spento la televisione nel momento in cui Caressa ha detto super spot. Ok? Quindi non avevo idea di cosa fosse accaduto fuori. Ieri ho guardato un po' di televisione per vedere un po' l'Inter, il Napoli, ma sempre calcio giocato. Stamattina mi alzo e dico, visto che devo andare a Radio 24 a parlare un po' di calcio, fammi vedere cosa è successo. Mi sono trovato con un mondo che era, come dire, radicalmente diverso, quindi solo dei gran litigi. Ho scoperto che hanno litigato nell'intervallo, che hanno fatto quasi a botte alla fine, gomitate, pugni, litigi in televisione, che sono però diventati assoluto far west, che sono diventati l'unica ragione per cui si parla. Sì. O parliamo di mezzo metro, 56 centimetri, sì, credo fosse, sì, la telemisurazione. No, ma è tutto il contesto, cioè con Galliani e Conte, cioè, ha dato particolarmente fastidio, è stato sottolineato l'altra sera, non mi ricordo a chi in TV, ma sono d'accordo su questo. Questo scagliarsi di tutti contro tutti, cioè ci sta che i giocatori si scazzino in campo, secondo me, o con l'arbitro, o magari il battibecco tra i due allenatori anche a distanza, o i dirigenti, però Galliani che va a insultare Tagliavento, cosa che non può fare, e questo è inaccettabile. Questa assoluta mancanza di rispetto neanche dei ruoli, nemmeno in questo, delle regole di ingaggio. Guarda, fammi tornare un attimo sul messaggio di Corrado, giusto, che diceva che sì, noi stiamo praticamente invitando a... Io credo che il vero grande sforzo per tutti noi, per tutti noi genitori, per chi è giovane, per chi è sportivo o meno, è tentare di fare sinceramente del proprio meglio. Dopodiché il mondo non è ovviamente perfetto. Se qualcuno inizia a pensare che gli sportivi possono essere dei modelli solo se si comportano sempre e comunque in modo corretto, è un mondo che non esiste. Allo stesso modo non si deve certamente valorizzare l'errore, né il tentativo smaliziato e la furbizia. Sì. Allo stesso modo, perché io penso che se Buffon oggi avesse detto, guardate, ve lo dico con sincerità, non ho avuto il coraggio di farlo, sarebbe una cosa giusta da fare, alzare la mano e dire la palla è dentro. Ma chi lo fa? Ma io, allora, aspetta, ma poi telefono agli ascoltatori e io glielo chiedo, ma tu lo faresti? Però anche la tua è una posizione, come dire, conflittuale. Non sì, è che sì. Perché non lo fa nessuno va bene. L'idea è, siamo di fronte a un caso, siamo di fronte a un caso in cui c'è un comportamento che è giusto. Non è facile da tenere, dobbiamo convivere con queste difficoltà, con questa imperfezione e cercare di rendere le più piccole possibile. Questa è la vera grande sfida. Se cerchiamo la ragione per litigare, ce ne sono in abbondanza in questo caso particolare. Tra poco tocca a voi, a 800 24 00 24, numero verde. Allora Andrea Zorzi, da nella pallavolo, se la palla è fuori o dentro te ne accorgi. Mica tanto. L'ultima Coppa Italia è stata... Sì, ma da giocatore, cioè tu sai se è dentro o fuori. In alcuni casi sì. Ci sono dei casi in cui te ne accorgi, però molte volte è la sensazione... io non... Ma se, no, è sulle palle toccate che c'è la grande battaglia. Sì. Perché la palla toccata, uno schiaccia, uno salta a muro, quello che salta a muro potrebbe sfiorare la palla e solo lui se ne accorge. Solo lui. Nell'arbitro, nei giudici di linea, né chi ha schiacciato. Puoi sentire il rumore, ma talvolta è così sottile che solo tu. E di solito in certi momenti non lo si dice. Ma certo. E adesso proviamo a capire, perché l'unico dubbio che mi è rimasto, visto che non ho mai fatto il portiere, è se Buffon dice non me ne sono accorto. Allora, un grande portiere, Giovanni Galli. Ciao Giovanni. Sì, ciao, buongiorno a tutti. Se ne è accorto o no? Ma sai, devo dire che rivedendo l'immagine a velocità normale, sei talmente concentrato. È quello il mio dubbio. Infatti, è quello il mio dubbio, perché io a velocità normale mi è sembrato un episodio veramente veloce. Quindi, quando ha detto non me ne sono accorto, cioè io non so se credergli o no, sinceramente. No, ma ascolta, ma anche se io dico questo, ma se anche se ne fosse accorto, sì, giusto? Che sì. Cosa faceva? Fermava il pallone, andava dall'arbitro e gli diceva era gol. Cioè, ma non siamo, ora no, se siamo i poveri dobbiamo fare dell'ipocrisia. Bravo. Il tema, ecco, allora bravo. Assolutamente. Cioè, io credo che in una situazione come quella, probabilmente se l'arbitro avesse fermato l'azione, perché il problema non è il fatto se al momento uno se n'è accorto o meno. Se l'arbitro avesse fermato l'azione, probabilmente avrebbe avuto il supporto indiretto o diretto del quarto uomo, che poteva dare anche una sbirciatina alla moviola, alla telecamera che c'è in campo, no? E magari avrebbe potuto nel frattempo, attraverso l'auricolare, dirgli tagliamento e gol, no? Oppure no, la palla è fuori, gliel'avrebbe potuto suggerire, già questo. Ma se avesse fermato l'azione, avrebbe potuto probabilmente in quel momento andare da Buffon e chiederglielo con azione ferma, ma sì, con la palla in movimento. Addirittura la Juventus stava per far gol dall'altra parte, se non c'è una grande parata di Abbiati. Sì. Non può il portiere fermarsi e dirgli la palla era entrata dentro. Ma dove si? Cioè, ma in che mondo si vive? Però quello Giovanni, che mi ha detto Andrea Zorzi prima. Intanto ben trovato. Ciao. La domanda è, non credo che si possa accusare Buffon di non avere alzato la mano, fermato tutti, no, è gol. Questo siamo d'accordo. Però tra questo e dire se anche l'avessi saputo non l'avrei detto lo stesso, come dire, è quella frase, quella mezza frase in più che effettivamente ci si poteva anche risparmiare. È su questo che stiamo discutendo. Non credo che nessuno si aspetti che Buffon fermasse il gioco per dire no, è gol. Io sto con Buffon, io ti dico Giovanni che io sono umano, sono certo. Non conto nulla, io non gliel'avrei detto, perché io lo scudetto non glielo regalo. So che cosa vuoi che ti dica? No, ma io posso capire, cioè comprendere, ma quando c'è il transagonistico, cioè te sei talmente portato, l'arbitro secondo me ha detto come tutti noi in quella circostanza avremmo risposto, magari poteva anche evitarlo, ma io sfido chiunque alla fine dire quello che effettivamente uno avrebbe fatto in quel momento, cioè se gliel'avesse chiesto lì per lì sul momento, cioè dopo non si può andare a dire io avrei detto che la palla era ma non l'avrebbe fatto nessuno. Ma certo. Fatto nessuno, cioè i falsi buonisti, credo che a quel punto lì c'è un arbitro che deve decidere. Allora, io non so se qualcuno di voi ha visto le immagini di Siena Palermo, ma che certo, è stato un rigore che è stato assegnato al Siena, dove addirittura il giocatore del Siena, resosi conto di non essere stato toccato dall'avversario, stava cercando di rialzarsi proprio velocemente perché aveva paura dell'ammonizione per la simulazione, e l'arbitro gli ha dato rigore. Che cosa avrebbe dovuto fare di Brienza? Avrebbe dovuto dirgli: guardi che non mi ha toccato, non me lo dia il rigore. Ma certo, io credo certo che questi stanno nell'ottica dell'errore umano, e che è bello, è il bello del calcio, è il bello dello sport, nell'ottica dell'errore umano. Poi dopo, se ci sono persone che non si prendono la responsabilità, e qui mi riferisco al Segnalini, cioè al Romagnoli, perché lui ha avuto paura, condizionato a mio avviso da, una, da 15 giorni di polemiche, condizionato da questo, non si è sentito di assegnare il gol per paura, non deve Buffon andare a coprire l'errore di chi è lì per fare quel lavoro. Certo. Questo è secondo me. Non solo Romagnoli, ma anche Tagliavento, che non aveva visto giusto, ma non ha avuto, come scrive un ascoltatore, la sicurezza e la personalità per andare contro il proprio collaboratore. Ma non era facile, era facile per Tagliavento da dove era posizionato. Lui ha avuto il sentore che probabilmente qualcosa di grosso era successo, e difatti lui indica con la mano destra, indica il centro come per dare il gol. Poi quando vede il suo collaboratore che non si muove, anche lui ha avuto un attimo, lì secondo me la statura dell'arbitro la potevamo vedere, nel senso fischia, se fischia e finisce, fermi all'azione. Sì, a quel punto, capito, fischiando fermi l'azione, vai verso il tuo collaboratore, giusto, perché te hai visto una cosa, vai dal tuo collaboratore, ti confronti. Nel frattempo, come ho detto prima, il quarto uomo aveva la possibilità di vedere o di rubare le immagini televisive e avrebbe potuto risolvere il problema. Certo. Si deve andare a dire a Buffon: la colpa è tua perché non hai detto che... Tu sei un farabotto, io non me la sento di schierarmi con i cavalieri della santa demagogia. Giovanni, grazie, so che devi andare. Grazie a voi, ciao. Buona giornata. Grazie, Giovanni Galli. Però me lo fai un passo indietro. Allora, Giovanni Galli ci ha aiutato a leggere cosa sarebbe potuto accadere, cos'era giusto che accadesse. Tornando però al fatto che sta molto a cuore a me se la reazione di Buffon sia più o meno giusta, per me è un po' giusta, un po' sbagliata, non possiamo limitarci ad analizzare il fatto che nessuno nelle sue condizioni avrebbe interrotto l'azione. Questo non è sufficiente a trasformare quel comportamento in un comportamento corretto. Sei d'accordo? Ma nessuno dice, nessuno partiamo dice da questo. Quindi esiste un problema di natura etico. Esiste un problema di quale sarebbe il comportamento corretto, anche se nessuno lo ha fatto. Su quello discutiamone e non prendiamone solo le parti negative per giustificare attacchi o difese a priori. Poi Andrea, nella storia del calcio c'è chi ha vinto la Coppa del Mondo segnando con la mano, no? E credo che sia ancora oggi... Il mondo è imperfetto, Il mondo è imperfetto. E lo sport è così, e quindi questa cioè, che non mi va giù è il fatto che si chieda comunque ad uno sportivo di essere di farsi carico di queste responsabilità. Poi arriva quello che mi dice: ma con quello che guadagnano, e cosa c'entra quello che guadagnano? Allo sportivo si può chiedere senso di responsabilità, e probabilmente Buffon non ne ha avuto tantissimo. Facciamo così: in un caso come questo chiediamo, invece di cercare una risposta precisa a ragione o a torto, è giusto o è sbagliato, chiediamo un po' di attenzione per dire: proviamo a immaginare più situazioni, aggiungere un po' più di motivazioni, e sappiamo che quella è la difficoltà di fare le scelte giuste. Sì, poi arrivano anche i cavalieri della moviola in campo, perché sono i loro giorni. Io sarò sempre contrario finché campo, vorrei vedere il chip nel pallone, vorrei che situazioni di questo tipo venissero risolte con la tecnologia, quella sì, sulla linea di porta, sulle linee laterali, ma non che venisse compromessa la discrezionalità dell'arbitro in un gioco la cui bellezza è l'imperfezione, come il calcio, a mio parere. Sì, però hai anche esempi rugby, basket, che sono riusciti senza grandi difficoltà a utilizzare la prova in Prova TV durante le partite, e questa cosa anche lì dipende dalla disponibilità, da quanto sei disposto ad accettare l'opinione degli altri, via dicendo. Comunque, vai. Senti, un altro caso della, poi cominciamo a parlare dopo la borsa che arriva tra un minuto con gli ascoltatori che sono tantissimi, 800 24 00 24. Un altro episodio della domenica che mi ha colpito: l'esclusione di De Rossi per motivi disciplinari. Interessante questa. Sì, sì, anche perché è un altro caso un po' spinoso, nel senso che io tendenzialmente sono uno che ha sempre difeso le regole, il rispetto delle regole, e se i 5 minuti di ritardo di De Rossi hanno convinto Luis Enrique a dire no, tu non puoi giocare, mi dispiace, forse potrebbe fare una via di mezzo, ma l'allenatore ha come compito quello di mantenere le regole, difenderle, perché questo è il vero investimento per fare una squadra molto forte. Anche a costo dell'autolesionismo? Beh, innanzitutto non sai se sia più autolesionista rischiare di perdere una partita o rischiare di perdere una squadra. Esattamente, o rischiare di perdere, di non creare l'ambiente con cui la squadra può vincere. In questo caso è complicato perché De Rossi è un giocatore molto importante, erano solo 5 minuti, hanno perso 4-1, giusto? E quindi il rischio è veramente alto. Io tendenzialmente tendo a pensare che il vero obiettivo sia fare in modo che De Rossi o chi per lui non arrivi in ritardo. Questo è l'obiettivo di Luis Enrique, non tanto di cacciarlo fuori o dimostrare che lui è forte. Vediamo cosa succede da adesso in avanti. Per questo lunedì così interessante, insieme al sottoscritto Carlo Genta c'è Andrea Zorzi e ci sono un sacco di ascoltatori. 800 24 00 24 è il numero verde. Tra l'altro oggi panchina d'oro strameritata a Guidolin, che si è commosso, panchina d'argento ad Attilio Tesser, che invece non è nemmeno più allenatore del Novara. Giuseppe, provincia di Arezzo, poi Salvatore Vicenza, San da Verona, Gigi De Napoli, tutti quanti. Giuseppe, buongiorno. Sì, buongiorno. Mi scusi, ma sto camminando, quindi cammini pure, fa bene camminare, fa bene camminare. Sì, sì, no. Dicevo, non so se la mia domanda l'ha già fatta qualcun altro, ma mi chiedevo, sempre sul caso di Buffon, supponiamo che Buffon fosse andato dall'arbitro a dire che era gol. L'arbitro che avrebbe dovuto fare? Avrebbe dovuto concedere il gol, no? Avrebbe... Se fosse stato il contrario? Cioè? Se non fosse stato gol... No, ma sì, ho capito, però stiamo facendo delle ipotesi quasi da fantascienza. Qui si tratta, secondo me, invece di valutare una condotta, e anche l'onestà di una frase, secondo me. Io sono convinto che nessuno di noi fosse stato in Gigi Buffon sarebbe andato dal... Ma sono convinto, ne trovo uno. Ma c'hai ragione, Andrea. Ho capito. Non trovi davvero nessuno che ha il coraggio... E chi dice il contrario mente. Perfetto, ma questo non risolve la situazione. Ma che situazione vuoi risolvere? Ma cioè, l'idea... Stiamo dicendo questo. Non è che stiamo dicendo che chi l'avrebbe fatto e Buffon ha sbagliato perché gli altri l'avrebbero fatto. Quasi nessuno lo fa. Io almeno non l'ho mai fatto in vita mia, neanch'io. Ma questa non è... Ma non posso trasformare questo comportamento sbagliato, un po' umano, come una sorta di comportamento corretto. Questa è la domanda. Quale sarebbe stato il comportamento corretto? Aspettare che l'arbitro ti chiede com'è andata? No, interrompere il gioco, no. Non dire... Magari ce lo dice Salvatore da Vicenza, eh? Salvatore? Buongiorno, il sangue mi ribolle un po' oggi pomeriggio. Cioè? Perché è tifoso? Un poco alzare la pressione sanguigna. No, per carità. Ma perché? Perché alzare la pressione sanguigna? Stiamo provando a parlare di sport. Il problema vero è che in Italia per queste cose ci si alza la pressione sanguigna, dovrebbe alzarci per altre cose, perché ci arrabbiamo queste robe qui. Esatto. Capisci? Ci arrabbiamo per queste robe qui. Io, perché sono un ex arbitro negli amatori qui a Vicenza, sì, no? Però voglio dire io, quel povero assistente che non ha visto il gol non gol di domenica, sì, quello è un assassino, è un delinquente, ma il Pazzini ieri a Napoli, lo mettiamo sullo stesso piano dell'assistente, non ho che capito. Ha mangiato un gol. Cioè un calciatore che sbaglia un gol a porta vuota, sì, secondo me, gli arbitri, perciò dico io sono tutta la vita con Nicky, gli arbitri non sono robot. No, chi dice che debbano essere robot? Però un guardaline di Serie A che commette un errore di quel tipo. Io guardi, le racconto questa. Il giorno dopo la famosa Corea-Italia, no? Che tutti ci ricordiamo, c'era una bravissima collega che riuscì ad intervistare, fu l'unica in Italia ad intervistare Byron Moreno, no? Che disse: ah, ragazzi, io non avrò anche fatto questo e quell'altro, magari non ho visto bene, Però se il vostro numero 32, credo fosse Vieri, non butta fuori il pallone a porta vuota a un metro dalla porta, vincete la partita e non mi chiamate mica. Salvatore e Carlo, è un vicolo cieco questo. Non si va da nessuna parte mettendo sul suo piano l'errore di un arbitro e l'eventuale errore di un giocatore. Non si va da nessuna parte. Ma sì, poi, sì, ma poi voglio dire una cosa però. Però la pressione che poi mettono tutti i giornali... Ma quello sì. Me ne ricade anche non solo in Serie A, perché noi guardiamo la Serie A, Serie B, no? Ma anche i campionati bassi. Il CSI negli oratori. Il CSI negli oratori, anche lì gli arbitri che sono della squadra che ospita vengono sottoposti a critiche pesantissime da parte dei genitori dei ragazzi. Questo è insopportabile, no? Non è Buffon che dice quello. Questo è insopportabile. Per me è insopportabile vedere il ragazzino che va a comportarsi in maniera maleducata con l'arbitro che è molto più grande qualcuno di lui. Ti direbbe, attenzione, che i ragazzini si comportano così anche perché in qualche modo l'ambiente generale manda alcuni messaggi. Ma non è Buffon, è suo papà che lo deve prendere per l'orecchio, non è Buffon. Ognuno c'ha le sue va bene questo, ognuno c'ha le sue responsabilità. Non possiamo scaricare su Buffon il compito educativo di essere un eroe senza colpa, non possiamo dire che l'educazione dipende dalla televisione o dallo sport, però tutti quanti devono cercare la parte positiva. Se cerchiamo di dar la colpa agli altri, non si va da nessuna parte. Poi ognuno ovviamente la guarda con le sue lenti, ma il pugno di Mexer Saboriel non l'ha visto nessuno perché non se ne parla, ne parlerà il giudice sportivo attraverso la prova TV, eccetera, eccetera. Salvatore Vicenza abbiamo sentito, speriamo che gli cali la pressione. A proposito di cose, sai che Bergmi ha scritto un articolo oggi che nell'ultima riunione che ha partecipato con gli arbitri dicono che un errore di fuorigioco che stia all'interno dei 30 centimetri non è considerato dagli arbitri un errore vero e proprio. Quindi nel caso specifico di Matri ieri, che era di pochissimi centimetri, dice non lamentiamoci troppo perché questo è il range di valutazione tra errori e non errori. Sì, poi anche su questa storia, sai, questa polemica, Conte 1-1, da una parte uno dall'altra, il problema è che uno era un elefante e l'altro era un topolino. Hassan, Verona, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie di avermi richiamato. Io sono d'accordo perché ho ascoltato anche l'intervista oggi di Nicky per il discorso del comportamento degli arbitri, anche di Buffon. Secondo me, se non vogliono la tecnologia, Blatter e Platini, devono almeno provare a fare come fanno per i cartellini rosso dopo la TV, la prova TV come hanno fatto con Ibrahimovic. Sì. Questa è una partita che è stata vista da tutto il mondo. Sì. Vedere un capitano della nazionale italiana, che è anche la mia, comportarsi in quel modo come un bambino, non so, vede la palla entrare un metro e cosa deve fare? Che insegnamento deve dare? Lui fa il portiere della Juventus, che insegnamento deve dare? Ma mi dica, dove viviamo? Mi scusi, Alice nel paese, nelle meraviglie non esiste, queste sono favole. Ma che insegnamento deve dare Gigi Buffon? Comportarsi come si deve. Lei sarebbe, mi dica una cosa e sia sincero, lei sarebbe andato dall'arbitro a dire che era gol? Non vuol mica dire. No, mi risponda. Lei sarebbe andato dall'arbitro a dire che era gol? Hassan, no, mi dispiace molto, però lei non ha risposto alla mia domanda e questa è una risposta. Gigi da Napoli. Pronto? Dica Gigi. Io dico basta parlare di questa cosa. Cioè, stiamo dando risalto ad una cazzata che ha detto Buffon dopo una partita con citatissima, con tantissima aspettativa. Cazzata relativamente. Ma cazzata nel senso, una boutade che una persona intelligente come Buffon risparmiarsi in quel momento. Però farci due giorni di trasmissione e poi trovare la gente esasperata, come se poi, come diceva il grandissimo Zorzi, da un calciatore di calcio di una squadra della Juventus si stesse cercando un insegnamento morale. Ma questo è calcio, cioè io voglio sentire parlare di passaggi, di squadre, di schema. Stiamo facendo una cosa incredibile, cioè voi giornalisti, capisco che poi avete il vostro stipendio che sostanzialmente, cioè voglio dire, voi vi occupate di calcio ed è santo, fantastico, ma ci sono anche cardiochirurghi che lavorano, cioè c'è anche gente che costruisce ponti. Dunque parliamo di calcio, è un gioco. Guardi, io sono. Sì, però alla fine finisce Gigi. In parte condivido il suo intervento, in parte lo capisco relativamente. Parliamo pure di calcio. Io e Andrea Zorzi parliamo di sport tutti i sabati, neanche soltanto di calcio. Poi siamo tutti d'accordo, lascia stare gli aspetti demagogici per cui c'è chi fa dei mestieri più importanti di noi, e sono moltissimi, anzi tutti quelli che fanno i mestieri più importanti del mio, cioè io lo vivo come come un divertimento. Il problema è che c'è gente che non ci riesce. Piuttosto che lavorare è meglio fare il giornalista. Ah, sicuro? però Gigi, secondo me, ha toccato un tema che lì è interessante. Si stava litigando nella fascia pubblicitaria tra Meta, è perché è irresistibile il fascino di una discussione in cui sembra che o c'ho ragione io o c'hai ragione te. Sì. Questo qui è perfetto. Una partita tra Juventus e Milan, che hanno finalmente rotto il loro patto di amicizia che durava da qualche anno. Teoricamente si gioca lo scudetto. Il capitano della nazionale, che è una persona conosciutissima, dice qualcosa che effettivamente si lascia a doppie interpretazioni, quindi è veramente una situazione irresistibile. A me dispiace, perché effettivamente poi i commenti, ma anche i miei toi, finiscono sempre per rinforzare questa conflittualità, quando potrebbe essere l'occasione straordinaria, non per parlare di tecnica, che adesso interessa veramente a pochi o a pochissimi, o delle altre squadre, che interessa veramente a pochissimi. Sì. È che stiamo tornando sempre su questo. Su questo argomento, sì, no, ha ragione o ha torto? No, Buffon c'ha un po' di ragione e anche un po' di torto. Tutte e due ce l'ha. Sì, ce l'ha tutte e due. Esatto. E allora, è come tutte le persone del mondo, hanno un po' di ragione e anche un po' di torto. Il che non significa esaltare il torto perché non tutti hanno ragione. Questo è l'errore. Non è che esalto l'imperfezione perché non c'è la perfezione. Ci provo. Ci provi e fai quello che puoi, qualche volta sbagli, come dice Buffon, e questo è il tentativo. Intanto Prandelli ha detto che non ha mai pensato di togliere la fascia di capitano a Buffon, lo ha detto ora nella conferenza stampa della Nazionale, mentre Zeman cosa ha detto? Di solito durante una partita nessuno direbbe se il pallone è entrato in porta o no, dopo la gara però si deve ammetterlo. E abbiamo l'audio di Zeman, e allora invece di leggervelo, audio. No, io penso che in partita non l'avrebbe detto nessuno, però dopo la partita penso che si può dire che c'è stata la palla dentro e che l'ha presa dentro la porta. Se ne è accorto lui come se ne sono accorti tanti altri. E anche lì, se lo dichiara, è solo onestà. Ripeto, come lui è anche capitano della nazionale, rappresenta tanto, penso che un po' di onestà non manca. Cosa ne pensi? Carlo, l'accusa che viene fatta a Buffon non è quella che ha detto non l'ho visto, non lo so, è che ha detto se anche l'avessi saputo non gliel'avrei detto e non glielo direi. Aspetta, dicendo anche, non lo dico che lo confesserei, perché se per caso mi capita per davvero... Poi dopo devo farlo, mannaggia a me. Magari, dico... nella finale dei mondiali. Esatto. Però questo, come ha detto Buffon. Però questo è il tema su quale stiamo discutendo. Cioè, Buffon non l'ha vista, non l'ha vista, era dentro, era fuori, non si può mica cambiare il risultato, non tocca a lui dirlo, ma l'idea è, non l'ho vista. Se anche l'avessi vista, non lo direi e non lo dirò. Su questo si può discutere. Certo, e Zeman si è unito al coro della demagogia in questo caso. Certo che sì. Andrea, prima di altri ascoltatori ti leggo questo sms che arriva da Lodi, di Stefano. Io neanche a Subbuteo con mio fratello gli dicevo che mi aveva fatto gol se lui non lo vedeva, e non sono juventino. Ecco. E io ti rispondo che allora dalla prossima volta, se capita, voglio un monitor anch'io, perché così tu leggi solo i messaggi che fanno comodo a te. Certo. Anche io facevo così, eh. Anche tu? Non ho mai alzato la mano. Ma al massimo gli dicevo: arbitro, hai sbagliato, ricordati 8 set del primo set, quando vai a casa riguardatela perché c'ho ragione io. E magari avevi torto. Quando dicevo della TV no, perché avrebbe visto che avevo... Quando invece si poteva mentire no. Si faceva. Si gioca, ma è sport, cioè non stiamo parlando, cioè mi bisogna anche di distinguere lo sport, il campo e l'agonismo dalla vita di tutti i giorni. Mi sono più volte comportato in modo non corretto in campo, e avrei dovuto e provato a fare diversamente, non ce l'ho fatta, ma questo mio comportamento, se viene stigmatizzato, un po' di ragione ce l'hanno. Perfetto. Simone dalla provincia di Livorno. Sì. Amico di Allegri. Buongiorno. Pronto? Pronto? No, dicevo sì, amico sì, di Allegri. Sì, allora volevo intervenire su questo, su questa discussione del gol fantasma, sì. Buffon. Volevo dire solo che è già quasi un'ora che stiamo discutendo sul fatto se Buffon è un ipocrita, se Buffon ha fatto bene, chi telefono, giornali, carta stampata, fiumi di televisioni, di programmi. Che, quindi? Ecco, io penso che l'ipocrita ipocrita, qui è il mondo del calcio e chi lo dirige è solo lui, perché in un fatto del genere basta un instant replay come ci sono in altri sport e non si sconvolge il calcio, perché non è che ogni minuto viene fermato. Simone, questa però è un'altra storia che ci riporta la tecnologia, l'instant replay oppure il chip nel pallone eccetera eccetera, però io continuo a pensarla come molti, come lo stesso Collina, come i primi che mi vengono in mente, Roberto Mancini. Il bello del calcio sono le discussioni, sono anche sono l'errore, cioè il vero problema è come noi lo recepiamo, la cosa fastidiosa è come noi lo recepiamo l'errore. Non è ciò che è il bello del calcio, è ciò che è divertente discutere di questi argomenti qua, ciò che ci attrae irresistibilmente, le 60 telefonate di oggi. Potremmo parlare anche di altre cose, anch'io, forse anche te, vorremmo dire no, ma dai, usciamo un po' da questo cliché di parlare di Buffon e via dicendo. Se non lo fai, in realtà è una mezza follia, perché è anche vero che è interessante, ma il tema è, ci stiamo però girando attorno a un tema nel quale ci piace moltissimo l'idea che c'ho ragione io, no, c'hai torto te, allora questa è la parte divertente. Finché rimane entro certi limiti, è quel piacere di dire, sai cosa, io oggi non c'ho voglia di pensare troppo, voglia di discutere e di litigare un pochettino anche, finché rimane in questi limiti. Quando diventa un atteggiamento che coinvolge troppe persone, troppe cose, che travalica le regole, diventa un po' pericoloso e forse va riportato in certi limiti. Mirko, Bologna. Sì, buongiorno. Buongiorno. Niente, volevo farvi una considerazione e una domanda, soprattutto a lei, ma soprattutto al signor Zorzi, che ha una tesi contraria. Allora, Buffon non è che ha convocato una conferenza stampa a tutte le televisioni per fare un'apertura di coda e dire quella frase. Se ci guardiamo bene, lui si è presentato come da contratto a Sky e gli hanno chiesto, ma tu la palla l'hai vista dentro? Allora, quando si fa una domanda, ci sono tre possibilità, rispondere come ha risposto lui, quindi dire no e provare a dire quello che lui pensa veramente, dire sì e quindi si sarebbe preso dell'antisportivo perché l'aveva vista e non l'aveva detto e lì c'avevano ragione a darglielo, oppure ignorare. Se avessi ignorato avrebbe preso dell'ignavo, cioè non prendi posizione e giù critiche. La mia domanda è, voi, a domanda fatta, cosa avreste risposto? Chi inizia? No, l'ha chiesto a te. L'ha chiesto a me. Allora, se Buffon aveva tre possibilità, Io avendo coraggio avrei risposto come lui. Hai ragione. Aspetta un attimo. Ci vuole coraggio. Buffon è di fronte a tre possibilità. La domanda la rivolgono a lui. Poi noi abbiamo altre tre possibilità alla risposta che lui ha dato. Non sostituiamoci a ciò che lui ha deciso di rispondere. Non l'ha fatta noi la domanda. Noi siamo di fronte a... Buffon ha detto questo. Possiamo inferocirci e dire che è un ipocrita. Sì. Cercare di coglierne il coraggio, come dici te, e dire ma sai che alla fine ha avuto il coraggio di dire qualcosa giustamente, oppure ignorarlo. Tre possibilità. Tu ne hai scelta una, che è quella di dire ma secondo me questo qui ha del coraggio. Sì. Io ne ho scelta quella che sta all'uno e mezzo, cioè secondo me ha avuto del coraggio e anche un po' sbagliato. Nessuno l'ha ignorato, però il discorso è, non facciamo sempre cosa faresti tu al posto suo, cosa fai tu al posto tuo. Certo. Questo abbiamo fatto, certo. E la posizione è un po' diversa tra me e te. Prandelli ha anche detto su De Rossi, sto con Luis Enrique tutta la vita, tutti dovremmo stare con chi fa applicare le regole, è assurdo anche solo che se ne discuta, alla Roma c'era un regolamento interno, è stato rispettato, è chiaro che a Daniele dispiace, ma sono sicuro che nei prossimi 5 anni i ragazzini della Roma arriveranno puntualissimi. Questa è la dichiarazione del commissario tecnico. E anche qui la cosa bella sarà vedere la reazione di De Rossi, dei giocatori, dei compagni, dei allenatori a questo evento che è accaduto, che ha dei chiaroscuri. Massimiliano da Cesena, poi Andrea da Milano, poi dobbiamo chiudere perché mancano 4 minuti. Massimiliano. Buongiorno gente. Allora, per parafrasare Prandelli, io sto con Zorzi tutta la vita. Sto con Zorzi tutta la vita, va bene. E non sarà un caso forse che viene da un mondo che non è quello del calcio. Purtroppo, diversamente da me, che non solo ho fatto una vita nel calcio, ma per di più sono anche un timido tifoso juventino. E allora voglio dire solo questo. I miei figli, anch'io figlio come voi, li sto tenendo lontani dal calcio. Fanno gli altri sport, ma non il calcio. Perché questo è il calcio. E questo è il calcio, è inutile, a caldo, io nessuno può aver visto quel gol, forse sì, forse no, ma non è questo il problema. Il problema è che se sono importanti le figure, Prandelli ha convocato Farina perché ha fatto una cosa incredibile, allora taccia, piuttosto, se non riesce a fare altro, taccia il capitano della nazionale, almeno quello, taccia, perché la cosa mediatica che si dà sui bambini è terrificante. E se avete dei bambini come me lo sapete benissimo che loro sono degli status symbol assoluti. Però Massimiliano, però gli si può anche spiegare, bravo, ai bambini, bravo. Massimiliano, ai bambini si può anche spiegare, gli si possono anche spiegare le cose, eh? Guarda, Buffon ha detto questa cosa, non è, secondo me non Buffon, lei. Secondo, infatti, gli si se tu gli dici ai figli, guarda, Buffon è un bravo giocatore, ha fatto questa cosa, secondo me è sbagliata, occorre capirla, inquadrarla, questo è un processo in cui lei si occupa dei suoi figli, dell'educazione, il calcio è certamente un ambiente complicato, ma qui noi ci carichiamo la responsabilità, non la scarichiamo sugli altri. Andrea da Milano. Buongiorno Carlo, buongiorno Andrea, ciao, complimenti, ciao, a tutti e due. Grazie. Sentite, io sono l'ultimo e quindi dico la cosa che farà incavolare soprattutto te Carlo. Dimmi. Però secondo me il messaggio è terrificante, cioè non stiamo parlando di calcio, stiamo parlando di sport. L'attività sportiva, sì, prevede onestà. Io capisco l'agone sportivo. Ho capito Andrea, però ma dove la vediamo? Carlo. Andrea, dove? Però se non la vediamo neanche nello sport possiamo chiudere baracche e burattini. Risponde Andrea Zorzi che conoscete bene. No, io credo che il vero messaggio sia, anche in presenza di situazioni come queste non corrette, si può cogliere la parte positiva e fare sì che attraverso una dichiarazione che poteva essere diversa, che poteva essere anche più giusta, possiamo cogliere l'occasione, sì, educativa. Però, Andrea, lo sport non si fa educazione pensando ad Alice nel Paese delle Meraviglie. Non si fa educazione pretendendo che tutti siano perfetti, si fa educazione sapendo che ci sono errori, cose giuste, è la tendenza, è la risposta che conta. Questo è. Se noi vogliamo dare ragione o torto a Buffon, è tempo perso. Come noi reagiamo alla scelta che ha fatto Buffon. Certo, ed è tempo perso anche dire, Andrea, che dagli sportivi deve venire l'esempio per qualcuno, secondo me. Se questa è la scusa per scaricare la responsabilità, è un errore drammatico. Se pretendi che loro siano gli educatori, ma quando mai? Allo stesso tempo loro hanno certe responsabilità. Se certo, dovranno prendere, evidente. Le gestiranno, le dovranno prendere, via dicendo. Questa è la vera grande sfida. Senti, dobbiamo chiudere. Mi dispiace molto, però domani poi riprenderanno gli ascoltatori a parlare con Gigi Garanzini, con me di basket, per fortuna venerdì, e con noi, io spero ci sabato. Sarà il sabato, sì. No? Dalle 5 alle 6 torneremo magari anche su questo argomento, no? Che è così dire. Nell'attesa vediamo cosa succede in una settimana che non ci lascerà mancare nulla. Grazie a Franco Piantaneda per il lavoro in redazione, a Pietro La Corte in regia, grazie soprattutto ad Andrea Zorzi per essere stato qui con me grazie oggi. A te, alla prossima occasione. Ciao a tutti. Ciao a tutti.